Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing to do tonight. Lo sacchetto che ha messo è go big o go home, che anche un noto studioso della lingua inglese come me può tradurre abbastanza agevolmente in vai alla grande oppure vai a casa. Noi della Leopolda siamo fatti così, o facciamo le cose in grande, oppure per venire a bivaccare possono venire anche gli altri. Up in the hotel bar, but it don't matter cause I'm feeling fine. I'm thinking life's too short, it's passing by. So if I'm gonna go it all, go big or go. Scorsi ci dicevano mettete le bandiere, nel frattempo se ne sono andati dal PD. Noi restiamo nel PD e portiamo il PD a governare l'Italia, a governare l'Europa, e la bandiera l'abbiamo tatuata nel cuore. Noi non abbiamo bisogno di misure elettorali o di mancette, per un motivo molto semplice, che se si votasse oggi, io dico che noi vinceremmo al primo turno con percentuali superiori a quelle delle elezioni europee. Non ho dubbi su questo. C'è un punto che voglio dire concludendo, anzi due. Uno umano e uno politico. Quell'umano è che chi pensa di strumentalizzare la vita delle persone deve fare pace con se stesso. Ma chi pensa di strumentalizzare la morte delle persone, personalmente mi fa schifo. Don't matter cause I'm feeling fine. I'm thinking life's too short, it's passing. Oh, che bella atmosfera, è tutto a posto, tutto meraviglioso. È la Leopolda, signori. Viva, viva, viva! Go big or go home. La canzone della Leopolda, o vai in grande o vai a casa. In corsa di Toni, 11 metri di distanza per il Verona che pareggia con il secondo gol in campionato di Luca Toni. Ecco, parliamo appunto di cose serie. Guarda che il Milan, dico io, sta facendo un campionato in linea con le aspettative, per cui stiamo sereni, amici rossoneri. Abbiamo una squadra da sesto, settimo posto per il livello della rosa di calciatore che abbiamo, per la qualità di calciatore che abbiamo, tipo Montolivo. Io Montolivo in Serie B non so se gli darei un posto se fosse un allenatore di Serie B. Quindi, avendo una rosa da sesto, settimo posto, siamo settimi? E allora, che volete? Cioè, siamo in linea con le aspettative, un campionato assolutamente in linea. Squadra costruita per il sesto, settimo posto, nonostante quello che ci dicono, e quindi siamo settimi. Va bene così, pareggino col Verona, va bene così. Di palla, esce da Darujanu, la prende, la tocca, Mandžukić! All'ultimo secondo. Io l'ho detto in tempi non sospetti che vincerà la Juve lo scudetto. In tempi non sospetti. Chissà se il nostro amico. Vabbè, ma tra poco lo presentiamo. Aspetta, lascialo lì un po', perché lascialo un po' lì tranquillo. Prima voglio presentare un amante del calcio, una donna che non si divide dal calcio. Mica ieri avrà seguito la Leopolda, avrà seguito la giornata di calcio tutta di battuta. La nostra Veronica. Veronica, la nostra Veronica Gentili. Come stai, Veronica? Buongiorno. Se tu inizi a parlare di calcio a quest'ora, mi ero quasi riaddormentata sul tavolo. Dai, non mi fai. No, ma di che vuoi parlare il lunedì? Di go big, go home. Siamo carichi a pallettoni come Renzi. Qui bisogna parlare solo di Leopolda, proprio come se non ci fosse un domani. La Leopolda adesso saranno 1000 Leopolde l'anno prossimo. La Leopolda non basta più, 1000 Leopolde annunciato. 365 giorni di Leopolda, ho sentito, ha fatto la battuta anche su quello. Ma la grande domanda è, ha cambiato spacciatore? No. Perché l'hai visto come... No, ma cosa dici? Stava carico a pallettoni misti ieri. Io capisco che è un momentaccio, però è invasato, ci hanno chiamato l'esorcista a un certo punto. Ma ha parlato 69 minuti. Posseduto proprio, con posseduto, la cravatta rossa, arrivo, dici. Prendo la cravatta, tolgo la cravatta, sterillato tutto il tempo. Ha fatto la scena, tempo. Cioè è partito con la cravatta, poi mi tolgo la cravatta. Certo, in corso d'opera. Ma tu mi sei stato distratto, io proprio stavo lì. Non ho seguito manco un minuto, Sono abbeverata alla fonte delle sue parole. No, manco un minuto, io devo dire, neanche un minuto. Allora, comunque, 3-4... C'è da fare col Milan. Allora 3-4-9 corsa di Toni, 11 metri di speranza per il Verona. Si beccano anche dalla regia, ragazzi. Peter Bescapè, che è milanista e gode delle disgrazie sue, ma pensate. Allora 3-4-9-2-3-8-6-6-6-6 il numero per i vostri messaggi, anche WhatsApp. Signori, vi devo presentare un uomo cioè neanche debosciato, un uomo in ferie di Natale a partire da oggi, vi rendete conto? Federico Novella. Buongiorno a tutti. E non buongiorno. Si vergogna manco un po' di questo? No, non mi vergogno. Beh, non è che sono proprio in ferie. No, sei in ferie. Non mi svedo più all'alba, a parte questo caso eccezionale stamattina in cui vedo che si riforma una grande coppia del giornalismo e perché no anche del cabaret, direi, no? Stiamo pensando di metterci nel cabaret, ve lo annunciamo, ma è questione proprio di ore. Perché, che hai fatto finora? Si sta preparando in difesa e forse c'ha lo stesso spacciatore di Renzi. Attenzione. No, Federico Novella, cioè così, senza ridere e scherzare, Federico Novella, Mattino 5, sarà conduttore di Mattino 5 nel 2016, perché da questo un po' di sas. No. Che sì, abbandoni il Mattino 5, ti svegli alle 8. Ma io dico, ma chi fa i palinsesti in TV? Cioè, cosa adesso uno accende alle 9 su Canale 5 e cosa trova? Trova, credo, dei film di Natale. Dei film di Natale, ma è bellissimo. Ma non ci sono le repliche con The Best of Novella, no? No. Quello, ci sarà un cofanetto che verrà venduto. E quindi abbiamo il regalo di Natale già pronto? È chiaro. Io lo regalo a Veronica e Veronica lo regala a me. Con dei contenuti speciali che non sto qui a dire. No, non vogliamo... No. Non vogliamo, certo, neanche immaginare. Non ci fare domande, ma l'uomo più amato dalle italiane dopo Ryan Gosling fa un cofanetto di Natale. Diamo l'annuncio. Ryan Gosling è secondo. Scusami, ogni tanto mi lascio prendere dalle stereotipie. Dove sei finito intanto? In cantina, Federico? No, non ti sentivo. No, eccomi, ci sono sempre. Adesso ti sento. Allora, in realtà è nel letto. È nel letto, sì, a questo punto. Questo è vero. A questo punto, fetale. A questo punto si impone subito il selfie. Quello di Veronica sappiamo che arriva sempre ormai in automatico, ovvero non te lo dobbiamo ancora chiedere, no? No, ormai. Federico, sì, ma io oggi pretendo quello di Novella. Perché Veronica se li fa già il giorno prima in serie, poi è pronto il giorno dopo. Io ne preparo una quindicina, però del lunedì, scusami, del martedì. Ormai lo sai, Federico, perché non l'hai preparato ieri? Abbi pazienza. Comunque voi state cazzeggiando mentre c'è un uomo che ha parlato del nostro futuro, che è Matteo Renzi. Allora dai, tu Federico, quanto hai seguito della Leopolda? Molto poco. La frase dello scheletro nell'armadio però mi ha colpito molto. Mi ha colpito perché l'ho visto con gli occhi iniettati di sangue, però l'ho visto anche un po' nervoso. Per la prima volta l'ho visto davvero nervoso, quindi vuol dire che questa cosa delle banche ha lasciato il segno, insomma. Ah, come no, e sta lasciando il segno moltissimo. Oh, quello che ha detto soprattutto è la frase più riportata oggi ai giornali: mi fa schifo chi specula sulla morte. Ovviamente si riferisce a questo signore, questo pensionato che si è suicidato dopo aver perso tutta Banca Etruria. Questa è l'unica cosa però che ha detto che invece, per quanto suoni così altisonante, ha un senso, perché quell'espressione di Salvini suicidio di Stato e tutto lo sciacallaggio che è stato fatto intorno è abbastanza infelice, secondo me. Quindi lui l'ha detto sempre col nuovo spacciatore carico a pallettoni, il concetto era giusto. Mi dirai che ne ha sparate un'altra quindicina di cose che erano abbastanza allarmanti e tu dicevi: ma è lui, ma sta facendo una performance. Ma quali, per esempio, visto che prima è che io ho visto veramente tutto. Hai esordito con: abbiamo rovesciato il sistema politico più gerontocratico d'Europa, tutte le cariatidi del mondo che erano tra lì, fuori di lì, o l'avevano chiamato al telefono dicendo: posso venire lì. Oggi la stampa lo fa notare, dice: mentre ha detto questa frase spunta Bassanini, 75 anni, consigliere di Palazzo Chigi, proprio da sotto il palco, presidente della Cassa Depositi e Prestiti. Sono tutti lì, non è che proprio anche Gentiloni, Franceschini sono proprio questi personaggi così all'acqua di rose, diciamo, trovati che sotto un papavero, insomma. Vabbè, diciamo un po' di ringiovanimento, però c'è stato, dai. Diciamo che è stata molto buona l'idea di affidare l'organizzazione della Leopolda a Kim Jong-il, presidente della Corea del Nord, perché gestiva un piccolissimo culto della personalità in tutta questa organizzazione. Non so se l'avete notato. Sì. Proprio leggermente. Però vi voglio chiedere questa cosa. Io, visto che hai citato la Corea del Nord, ho fatto questo tweet 3 giorni fa dicendo che il silenzio che c'era dei grandi giornali, i giornaloni, insomma, della vicenda Boschi, il papà della Boschi, il fratello della Boschi, sembrava un po' la Corea del Nord. Poi in realtà molti mi hanno criticato a dire: ma come, se ne parla ovunque? Ma sì, certo, se uno legge il Fatto Quotidiano c'è, se leggi Libero c'è, se guardi su internet. Avevi visto il numero che ha fatto? Quella è stata la più grossa caduta di tono che ci ha avuto. Ha attaccato il Fatto Quotidiano, Renzi, ma non si fa, Matteo, non si fa. Con il giornalista Lagogna di Grillo è stato Dio Grillo. Adesso di questo ne parliamo. Non è illegale criticare Quotidiano. Ecco, esatto, ne parliamo, perché sennò sembra una difesa di categoria. I giornalisti sono una delle categorie più brutte esistenti in Italia. Non è illegale, ma è di pessimo gusto, però. Andiamo con ordine. La vicenda Boschi. Allora, tu, Federico, che dici? Cioè, perché Marina Boschi dice dietro le quinte, perché pubblicamente non dice molto, si dice molto, molto colpita da questo attacco personale. Saviano, che insomma. No, non è un attacco personale, però. Non è un attacco personale, è un attacco politico. Nel senso che si mette in discussione, o comunque si sottolinea l'inopportunità politica, o comunque la non normalità di una situazione in cui un governo decreta su una banca in cui ai vertici del board c'è il padre del ministro più influente del governo. Sì. E in cui, ultima notizia, si scopre che i genitori del premier sono in affari da quest'anno. Perché Tiziano Renzi ha detto: querelleremo tutti, non è vero che abbiamo a che fare con Banca Etruria. Sentiremo, però ha ragione Saviano, nel senso che è un po' strano che ci sia molta timidezza in buona parte della stampa italiana in una situazione che è normale o non è normale. Se Berlusconi legiferasse su una banca che è del padre della Gelmini, ci sarebbero probabilmente i Giacobini che infatti sotto il Quirinale. Ma infatti lo dico anch'io, cioè mi tocca difendere Berlusconi, cioè capite cosa capita a 44 anni della vita, spezzare una lancia per Silvio Berlusconi. Io ho letto delle cose terribili, cioè ho letto il presidente della regione Emilia Romagna che dice: è un attacco sessista, non c'è niente di sessista. Attenzione, voi mi immaginate Veronica Gentili 3 anni fa, se fosse capitato, che ne so, col vicepresidente della banca Marina Berlusconi e il consigliere Paolo Berlusconi, no? Caro Milan, però cosa avresti fatto? Che non fa tante distinzioni, che mi sembra che anche con Renzi non sia proprio questa campionessa di tenerezza. Ma infatti il Fatto Quotidiano, devo dire no, il Fatto Quotidiano picchia duro, picchia duro. E infatti verranno rieducati presto. Verranno rieducati. Hai visto subito, no? Qual è il quotidiano peggiore che fa i titoli peggiori? Il Fatto Quotidiano. Allora però, Veronica, allora dimmi la tua sulla Boschi, ma prima te la faccio sentire. Maria Elena Boschi, sentila qua. Grazie davvero. Oh, finalmente ci sono e mi scuso per il ritardo, anche perché ho letto in queste ore un sacco di ricostruzioni molto fantasiose, alcune veramente divertenti, sul perché non fossi qui con voi ieri sera. Le CRS sibilano sempre un po' meno, era un po' forse piccata. Comunque, Veronica. Beh, lei è palesemente quella più in difficoltà, ma la situazione comunque è molto strana. Ora, al di là che su questa storia delle banche si è detto di tutto e di più, ma lei si trova in una situazione un po' infelice, cioè praticamente tutta la famiglia lì dentro, lei era socia poco, era una piccola azionista, però lo era. Dopodiché il padre era stata commissionata alla Banca d'Etruria con il papà che era direttore, che era semplicemente un manager, no? Sì. Ed poi... è stato promosso nell'arco di 8 mesi dopo che la figlia è diventata ministra vicepresidente. Ma sai cosa dice lei, almeno ricostruzioni oggi retroscena? Dice lui è stato messo lì, vicepresidente, per cercare di raddrizzare la baracca che stava evidentemente. Ho capito, di ricostruzioni ognuno può dire quello che vuole. Qual è la sua versione? Che nella realtà dei fatti. Vai caro, non ti interromperei mai. Che ci sono questi 185 milioni che gli amministratori della banca hanno prestato a se stessi? Sì, si capisce ancora bene dove siamo andati a finire. Però l'attacco politico è che l'attacco politico della Boschi dice: io cosa c'entro semmai ci fossero anche delle responsabilità? Questa è la questione, no? Lei non c'entra nulla, infatti, non è una questione personale. Il problema del conflitto di interessi un po' c'è. Perché? Nessuno dice che si debba dimettere, però decidiamo. Saviano dice che si deve dimettere. Intanto che ci sia una provocazione forte aiuta a mettere la questione al centro, visto che finora si è fatto il silenzio totale e la giustificazione dirompente è quella che lei non ha votato durante quel consiglio. Allora dici, se non, in quel caso lei non ha votato, dici, Il problema qual è? Che non bisogna parlarne? Il problema qual è? Che bisogna far finta di nulla? Ci avete massacrato per 20 anni con il conflitto di interesse di Berlusconi, fateci fare due domande anche sui conflitti di interesse e fatecele fare noi prendiamo il Fatto Quotidiano e lo mettiamo alla gogna noi renziani. È una gaffe, perché non è da lui, cioè lui di solito è quello che vuole essere amico di tutti, che vuole essere simpatico, lui finge questo. Ma questo era Renzi di 2 anni fa, era Renzi di 2 anni fa. Comunque devo dare il traffico, aspetta, c'è un messaggio, basta cazzate, dateci il selfie della Gentili. Questo arriva un messaggio via WhatsApp. Ecco, capito la gente che si sveglia lunedì? Datemi il traffico, va. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Alino, Maremma Maiala, sono in Russia, tutti mi chiedono, ma in Italia questa bad bank, i soldi da dove li prendono dopo? Da tutte le tasche degli italiani, li fanno la sorpresina di Natale? Ciao Milan, complimenti per la trasmissione, sei il numero uno! La Boschi, alle S che sibillano e le C che dicono cazzate! A proposito di quelle quattro banche che hanno fregato tanta gente, c'è un detto che dice: chi ruba fa la roba e chi lavora fa la gobba. Ciao Mila e forza Juve. Oh Mila, accidenta a te, non ti avevo detto che mi dovevi mandare un messaggio quando c'era la Veronica Gentili? Ora è ormai guastato tutta la settimana, hai capito? Ma daglielo il numero di telefono e la rincarto io, vi può vedere come sono fatti i toscani. Ciao. Qui la situazione sta uscendo proprio dai binari del controllo. Basilare. Apprezziamo molto le tue sottili analisi politiche, ma caccia il selfie. Escilo, ma tu l'hai uscito? Vabbè, insomma. E io lo uscirò. Allora, dopo il tuo, Veronica Gentili ha mandato il suo selfie, ma io non lo vedo però. No, l'ha mandato, è ufficiale. L'hanno tenuto in regia. È ufficiale perché iniziano a sorridere in regia. E erano così tutti. gruppi, no, tutti i bulli. No, c'è un lavoro di equipe. Ma di una crudeltà incredibile, novella. Ma perché non gli dai una testata? Dobbiamo fare un duo, siamo Sandra e Raimondo ormai. Ormai così. Vabbè, così. La gente che chiede dove si vede il selfie di Veronica. Allora, dovete essere su Twitter intanto. Su Twitter, seguirci su Twitter 24 mattino è il profilo. E noi lo ritwittiamo adesso, ovviamente. Attendiamo quello di Federico Novella quando si toglie il pigiama, si sveglia, si lava. State facendo la censura sul selfie di Veronica. No, invece quello di Federico Novella è una foto in costume da bagno, no, certo. Quello di Federico Novella arriverà un po' con più calma perché è in vacanza il signore, è in vacanza e così quindi... me la prendo comodo. Sì, ma ce n'è sempre una, o deve arrivare alla sbarra o sta a dormire, è andato giù in cantina, mette a posto. No, eh. Attenzione, è arrivato, lo vedo davanti a me il selfie di Veronica Gentili, lo sto e descrivilo. Intanto ha gli occhiali. Hai capito? Ha gli occhiali. Vabbè. Hai capito? Vabbè, oggi vi ho voluto dare questo... una variante perché sennò poi dicono sempre con queste faccette, la boccuccia da selfie, mettiamo l'occhiale. Invece ha gli occhiali. Vabbè, insomma. L'ho presi qua sotto, ho chiesto scusate. Non lo descrivo perché poi faccio come il toscano lì, che com'è che te rincarto? Rincarto, ma il signore ha detto di darmi il numero, che è contento se lo chiamo, quindi lo chiamo, eh? Sì, il signore vorrebbe che io dessi a te il suo numero oppure che dessi a lui il tuo numero. Adesso non è una rubrica per cuori solitari. Esatto. Vabbè, ma parliamo. Stavamo parlando di un'altra. Come Marta Flavi. Stavamo parlando di un'altra toscana. Allora, no, mi è piaciuta la domanda di Federico Novella. Allora, se ne può parlare almeno del caso, chiamatelo come volete, non c'è nessun caso. Della situazione Banca Etruria, della situazione di Maria Elena Boschi, se ne può parlare? Credo di sì, in un paese democratico, credo se ne possa parlare, E infatti, ne stiamo parlando, infatti. Bisognerebbe parlarne, il problema è che per lui, per questo secondo me era così nervoso ieri, la Boschi è uno dei simboli principali del renzismo ed è la padrona di casa della Leopolda, non a caso venerdì c'è stato un momento di panico collettivo, lei non è arrivata, sì. C'è stata la sindrome, sembrava il G8 di Genova, capito, con la zona rossa della città, perché avevano il terrore che tutti i poveri risparmiatori delle quattro banche, di Banca Etruria, poi lì i vari aretini toscani, andassero lì a manifestargli, a guastargli la festa, quindi chiaramente la stanno blindando in tutti i modi, però se ne deve parlare, non è che se ne può parlare. Allora, sappiate invece, per parlare di altre cose, giusto due minuti, che c'è un tesoro che scrive oggi il giorno, è nell'oceano da 2 miliardi di dollari, se volete iscrivervi anche a voi nel cercare questo tesoro, insomma è quasi Natale. Quello di Craxi? No, è finito nell'oceano durante la transumanza. No, credo sia una nave affondata, un vascello affondato della flotta svedese diversi anni fa, attorno a Panama, se volete andare per le vacanze di Natale. Sono 2 miliardi di dollari in palio, questo racconta il giorno. Ma non possiamo risolvere la situazione dei risparmiatori delle banche fallite col tesoro? Non lo so, certo, poi Federico Novella, tu che sei in ferie, hai tanti giorni disponibili davanti a te, potresti partire. Potresti sentire Padoan e andate insieme a cercare un attimo il tesoro, scusa. Esatto. Vestiti da pirati. È affondata nel 1631 con 51 tonnellate d'oro. Se volete andare a cercare il relitto di questa nave al largo di Panama, fate voi. Va bene, Fede, dopo ci mettiamo d'accordo. Va bene, io sappi però che ha già due metri mi ci siano le orecchie, non sono capace di andare sotto in apnea più di tanto. Vabbè. Allora, che faccio? Poi devo fare tutto io. Signori, voglio farvi sentire in chiusura un uomo che invece ha riacquistato la libertà, Un uomo che adesso vedremo intervistato in tutti i talk show. Meraviglia. Sai già di chi stiamo parlando. Che meraviglia, se avesse avuto l'airbag. Totò Cuffaro, ho sbattuto contro la mafia ma non avevo l'airbag. Questa è la sua massima confuciana che ha partorito una volta libero. Già ho sbattuto contro la mafia, era straordinario. Dicevo, questa l'ha pensata, i quattro anni di carcere è meglio del De Profundis. Questa, e poi se avessi avuto l'airbag, se avessi avuto, ha detto, come si chiama quel coso quando fai l'incidente? Airbag. Cuffaro, senti qua, fa? Ha dei progetti adesso? Credo di aver diritto a tornare a vivere come qualsiasi cittadino che ha sbagliato, diciamo che ho sbagliato, e torna a vivere. Sì, andrò in Africa con la Motor World Foundation, che è un'organizzazione, che è un'associazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta gestendo l'ospedale che io ho costruito. Andrai in Africa, andrai in Africa. Al contrario di Veltroni, però, vedi che secondo me lui lo fa. Con la ho capito quale foundation, non voglio azzardare, la Motor Gold, cos'è che era? Però al contrario di tanti altri che hanno cercato migliaia di scappatoie per non andare in carcere, delegittimare la magistratura, eccetera, eccetera, lui la sua pena l'ha pagata. Certo. Ma c'era lui, c'era poco da cercare. Ho capito, però devo dire, però adesso dobbiamo sforzarci per trattarlo esattamente Ma infatti, su questo devo dire, ma siamo, tante volte parliamo dell'America, siamo americani fino in fondo. In America uno sbaglia, paga e poi basta. Cioè, voglio dire, gli si dà una seconda chance, non dico nella politica, non lo so, cioè, però ha di fare la sua vita, no? Ha sbagliato. Intanto dobbiamo aspettare una lancia, perché io oggi l'ho invece bocciato in rubrica. Lui, a differenza di Genovese, siccome ci stava già dalla parte berlusconiana, non ha nemmeno la possibilità di passare adesso dall'altra parte politica e ricandidarsi. Non credo che pensi alla politica, penserà ad altro. Speriamo per lui che non pensi alla politica. Poi se pensa alla politica, aspettate, lo dicono tutti che vanno in Africa, in Africa non ce l'ha mai nessuno. In effetti, anche questo è vero. Africa is the new black, dopodiché non ci va mai nessuno, persino Veltroni non è andato. Non è andato. Vabbè, ci andrà in queste ferie Federico Novella, forse, ma io vi devo salutare, non posso neanche dire alle 9 Federico Novella, alle 9 dal 7 gennaio Federico Novella torna con Mattino 5. Mentre Veronica Gentili, ti dico solo che la gente via WhatsApp, via messaggi, ha apprezzato il tuo selfie, ecco, la mettiamo solo così. Ha apprezzato il tuo selfie, va bene? Attendiamo quello di Federico, mandacelo su Twitter. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, amici, la 137esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, eccola qui, cominciata ufficialmente, e noi siamo puntuali a 24 mattino. È il momento della rassegna stampa, raccontiamo quello che c'è sui giornali, soprattutto parlano di Francia, ma anche di banche, ovviamente. E allora, dai, andiamo a sfogliarli. 14 dicembre, i titoli intanto, l'apertura del Sole 24 Ore è su consumi, lavoro, investimenti, i numeri dell'emergenza Sud, gli indicatori che confermano i ritardi sempre più gravi. E poi la maggior parte dei titoli di apertura sono dedicati alle elezioni regionali in Francia, dove Marine Le Pen del Front National non conquista alcuna regione dopo aver avuto un exploit elettorale al primo turno. Marine Le Pen perde la sua sfida, questo è il titolo del Corriere della Sera, 7 regioni ai repubblicani, 6 ai socialisti, e lei dice intimidazioni contro di noi. Repubblica, la Francia ferma l'onda Le Pen. La Stampa, la Francia dice no alla Le Pen. Il Messaggero, Francia, Le Pen a mani vuote. E così è lo stesso titolo del Secolo XIX, Le Pen resta a mani vuote. Vive la France è il titolo dell'Unità in prima pagina. Chi invece sceglie altre aperture sono il Fatto Quotidiano, Renzi in guerra contro il Fatto, è l'edittino, secondo il giornale di Marco Travaglio, del Presidente del Consiglio nei confronti del suo giornale. Crack banche, i veri numeri, questa è l'apertura del Giorno, mentre il Giornale ha un'inchiesta della Guardia di Finanza, soldi e potere, banche, amici e De Benedetti, il giallo dell'affare milionario. Finanza e Procura di Roma indagano su una plusvalenza dell'ingegnere sulle popolari. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Così anche Libero, banche, le due colpe di Renzi, è il titolo di prima pagina. Voglio partire però da un po' di cronaca giudiziaria e soprattutto dalla vicenda Alberto Stasi. Non c'è giornale che non abbia reso conto della prima notte in carcere di Alberto Stasi, condannato in definitiva alla fine a 16 anni di carcere per l'uccisione di Chiara Poggi e quindi il delitto di Garlasco. Sapete che è prerogativa dei politici poter entrare nelle carceri e andare a fare visite, e allora immancabili alcuni politici sono andati a trovare Alberto Stasi e tutto il resoconto dell'incontro è spiattellato sui giornali. Giusy Fasano e Pierpaolo Lio, per esempio, raccontano a pagina 20 del Corriere della Sera la visita di un consigliere regionale della Lombardia che è andato al carcere di Bollate. Non c'è il nome di questo consigliere regionale. Stasi in cella chiede di spegnere la TV. Non voglio sapere cosa dicono di me. In piedi, occhi bassi, mani in tasca, Alberto Stasi comincia dal suo ultimo momento di speranza, il punto esatto in cui la parola innocente sembrava ancora possibile. Non me l'aspettavo, giuro che proprio non me l'aspettavo. Anche il procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione. Io non ho ucciso Chiara, ero tranquillo. Questa è la posizione del condannato, di Alberto Stasi, che parla così con il consigliere regionale che va a fargli visita. Quando mi hanno detto della condanna ero dall'avvocato, non sono nemmeno passato a casa a prendere il necessario, mi sono immaginato la ressa di giornalisti davanti al cancello e dunque ha preferito venire direttamente al carcere. Il carcere di Bollate è un carcere modello perché il detenuto può scegliere il carcere in cui costituirsi, poi ora bisognerà decidere se rimarrà lì o se invece verrà trasferito. Viene definito come abbattuto e dimesso, faccia stanca, condivide la cella con due italiani e due montenegrini e in questo penitenziario chiede solo, supplica di poter spegnere la TV. Vi chiedo per favore, non vuole più vedere programmi che parlano di lui. Ha solo un momento di cedimento, racconta il Corriere, quando parla della mamma. La vedrò domani, cioè oggi. Nodo alla gola perché, aggiunge, la mamma ora è rimasta sola. E va bene, questo è il resoconto di Alberto Stasi, ma anche La Stampa ha un incontro di chi? Del deputato dei moderati eletto nelle liste del PD, Giacomo Portas, che va a trovare Alberto Stasi in carcere. Lui, tra l'altro, Portas si occupa di una materia cara ad Alberto Stasi, che è commercialista, ed ecco allora che qua si racconta la prima notte in cella. Sono sconvolto, non so come sopravviverò qui, ma nell'articolo di Lodovico Poletto c'è anche uno spazio dedicato all'Alberto Stasi commercialista, che di fronte al politico dice: con tutti questi decreti voi rendete la vita impossibile a noi commercialisti, dovreste fare in altro modo. 5 minuti su questioni tecniche, poi ovviamente prevale il caso personale e il carcere che torna prepotentemente nel futuro di Alberto Stasi. Comunque non c'è giornale che non abbia questo, come non c'è giornale che non abbia invece dedicato una pagina a una vicenda giudiziaria che invece si conclude, quella di Totò Cuffaro. Totò Cuffaro che invece esce dal carcere, esce da Rebibbia dopo 5 anni, l'accusa nei suoi confronti e la condanna che ha scontato è associazione esterna alla mafia. La nuova libertà di Cuffaro, basta politica, oggi è cattiva, in carcere c'è più umanità. E vi segnalo l'intervista, il resoconto di Giovanni Bianconi, così come vi segnalo Attilio Bolzoni e Emanuele Lauria, che in qualche modo accompagnano Cuffaro nel suo viaggio verso casa. La nuova vita di Cuffaro: so di avere sbagliato, la notte più difficile è stata proprio l'ultima in cella. Alcune frasi di Cuffaro libero: la prigione toglie il fiato, ma io ce l'ho fatta. Dicono che non ho avuto sconti perché non ho collaborato con i magistrati. La verità è che la mia doveva essere una punizione esemplare per tutta la politica. E ancora questa frase che è finita su tutti i giornali: ho sbattuto contro la mafia, ma non avevo l'airbag. E poi riguardo al futuro, niente politica, andrò in Africa a fare il medico volontario nell'ospedale che avevo finanziato. un cuffaro che poi aggiunge: sulla mafia in cuor mio continuo a sentirmi innocente, è vero che ho rivelato alcune informazioni ma non era mia intenzione favorire i mafiosi. L'antimafia non si fa urlando e non la possono fare solo polizia e magistratura. Per fortuna oggi c'è qualche professionista dell'antimafia in meno ed è meglio così. Così Totò Cuffaro, in questo viaggio proprio accompagnato dai giornalisti che lo accompagnano a casa, anche con il pranzo in una trattoria di Polla vicino al Lago Negro, bistecca un bicchiere di vino, il primo dal 2011, dice Totò Cuffaro, il primo bicchiere di vino da 5 anni. Oh, sembra che oggi i giornali siano dedicati al carcere. Guardate un po' Libero chi intervista, ve lo ricordate? Olindo, di Rosa e Olindo, la strage di Erba. Olindo Romano, intervistato in una forma un po' strana, Matteo Pandini racconta sul Libero una lettera che abbiamo spedito al carcere, nel carcere, a Olindo, e lui ha risposto sempre per lettera, e quindi questa risposta di Olindo diventa una sorta di intervista. La mia galera tra cucina, telenovele e speranza. Non perde una puntata del Segreto, lo sapete, Olindo Romano. E poi dice: io e la mia Rosa abbiamo confessato perché manipolati dai carabinieri. Sono certo che torneremo liberi. E la prima cosa che farò uscito dal carcere, abbracciare proprio la mia Rosa. Dal carcere parla Olindo su Libero, intervista di Matteo Pandini. Evviva! Allora, a proposito di forze dell'ordine, visto che ho iniziato parlando e raccontando tante cose legate al carcere, c'è questa pagina del Messaggero legata agli stipendi delle forze dell'ordine, che certo non farà molto piacere a chi lavora nel comparto. Luca Cifoni racconta, pagina 8, che gli 80 euro alle forze dell'ordine saranno solo per il 2016, ed è subito protesta. Oltre 3 miliardi di nuove spese che si aggiungeranno al deficit 2016, portandolo al 2,4% del PIL, se l'Unione Europea darà il via libera alla cosiddetta clausola dei migranti. E sono queste le ultime novità della legge di stabilità che è in discussione. Ma la questione degli 80 euro, che sulla quale mette l'accento il Messaggero, è proprio questa: i lavoratori della sicurezza, polizia, vigili del fuoco, forze armate, escluse le capitanerie di porto, andranno gli 80 euro al mese promessi, che non avranno la forma del credito d'imposta ma dell'erogazione diretta in busta paga, per un totale di 960 euro su 12 mesi. Il beneficio però sarà in vigore solo per il 2016. Naturalmente sempre nell'ipotesi ci sia il via libera dell'Unione Europea a usare queste risorse. Per questo non piace ai sindacati del settore, che immediatamente dopo aver visionato il testo hanno fatto conoscere la propria insoddisfazione. Cioè, non è una misura confermata, non è una misura strutturale, è una misura una tantum per il 2016. Questo raccontano i giornali. Ma eccoci qui, siamo al momento della carta, no, non della carta costa, al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata, giusto per iniziare il lunedì. È una vicenda anche dolorosa che riguarda un'inchiesta. È raccontata dalla Stampa, il premio Mani sul volante, all'articolo di Andrea Rossi. Il titolo è questo: nasce una bimba down, condannato il ginecologo. Non so perché mi faccia bene arrabbiare questa vicenda, però mi fa arrabbiare nel leggere. La Cassazione stabilisce: questo dottore non ha messo i genitori in condizione di decidere gli esami. Il dovere di un medico non si esaurisce nel valutare lo stato di salute del suo paziente. Non basta, non è tutto. Un paziente deve sempre essere messo nelle condizioni di poter decidere le terapie e gli esami cui sottoporsi. Deve sapere quali sono le opzioni, tutte le opzioni che ha di fronte a sé. E il dottore non può decidere al posto suo tacendogliele. E questo è un principio che mi sembra sacrosanto. La Cassazione, sulla base di questi principi, ha condannato un ginecologo di Mantova a risarcire una donna che ha partorito una bambina affetta dalla sindrome di Down e suo marito, ovviamente. Avevano infatti deciso di abortire se fosse stata affetta da gravi malformazioni. I dottori lo sapevano Eppure, secondo la Cassazione, il ginecologo non è andato oltre gli esami indispensabili, come il B-test, prelievo di sangue che fornisce un indice del rischio sulle patologie. Tra l'altro, racconta la stampa, questa vicenda vede prima il ginecologo assolto in primo grado, assolto in appello, e poi il terzo grado di giudizio invece ha riconosciuto la battaglia di questi due genitori e suona in apparente contraddizione con gli orientamenti del Ministero della Salute, che dice evitare gli esami inutili o ridondanti che si trasformano in sprechi e gonfiano le liste d'attesa. La Cassazione invece dice che questo ginecologo non ha messo i genitori in condizione di decidere e dunque, dopo aver dato alla luce una bimba affetta da sindrome di Down, è stato condannato. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, informazione che non è mai stata in B, tantomeno due volte. Intanto siamo settimi, in linea con le nostre aspettative, e quindi bene così quest'anno. Allora, cari ascoltatori, ovviamente dobbiamo parlare della Leopolda. La Leopolda di Renzi è stato l'evento politico del weekend, è stata una Leopolda, a meno per come viene raccontata dai giornali, nella quale la questione delle banche e le polemiche delle banche, anche le polemiche legate al ministro Boschi, hanno inciso molto. Il sì di Renzi all'indagine parlamentare, partiamo da qui, pagina 8 del Corriere della Sera. Maria Teresa Meli racconta, come spesso fa, un po' il retroscena, il dietro le quinte, il famoso Renzi ai suoi, cioè Renzi quello che dice al di là di quello che dice pubblicamente, quello che pensa, e pensa così dietro le quinte: se qualcuno pensa di fermarmi si sbaglia di grosso, io vado avanti, l'importante è non cadere nelle provocazioni, non mollo. Se c'è chi lo crede vuol dire che non ha capito chi sono. E soprattutto questa stilettata a Saviano, che aveva detto la Boschi si deve dimettere per il padre e il fratello nella Banca Etruria. Saviano alla frustrazione del rottamato, così Matteo Renzi. Il premier in realtà pubblicamente non lo nomina mai, ma è chiaro a chi si rivolge quando afferma: noi non abbiamo fatto nessun favoritismo, e chi lo dice insulta persone per bene che non meritano di essere messe alla berlina. Poi ha anche parlato di suo papà. 15 mesi fa è stato indagato il mio babbo, gli è crollato il mondo addosso, la procura ha chiesto l'archiviazione, ma lui passerà il secondo Natale da indagato. Io gli ho detto zitto e aspetta. Lui mi dice dovremmo passare al contrattacco, io però non dirò mezza parola perché ho fiducia nella giustizia, e provo anche grande solidarietà per chi sfoga con retroscena, allusioni, le proprie insoddisfazioni personali. Noi invece risponderemo sempre con un sorriso. Insomma, Matteo Renzi che poi ha lanciato questa idea del go big or go home, cioè o vai alla grande o vai a casa, perché non si vuole vivacchiare. In realtà, al di là di questa dorata rappresentazione, va tutto bene, tutto a posto, i giornali raccontano che la situazione, soprattutto legata a Maria Elena Boschi, è una situazione di grande tensione. Pagina 9 del Corriere, sempre, Monica Guerzoni racconta: Boschi resta dietro le quinte, dimissioni è una richiesta immotivata. La botta però, racconta Monica Guerzoni, è stata molto pesante, ma il giorno più nero è alle spalle. Viene definita forte, solida, determinata, pronta a affrontare la richiesta di dimissioni presentata da Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega. È stata ferita, ma è sulla via della guarigione, dicono di lei i suoi più vicini amici all'interno del Partito Democratico. Mentre Maria Elena Boschi, a chi ha potuto avvicinarla, chi le ha potuto parlare di questa vicenda, ha detto: soffro per mio padre e mia madre, mi sento in colpa perché la mia famiglia è stata tirata in mezzo, anche se non devo giustificarmi di nulla. Questa la sua posizione. Certo, intanto politicamente anche Salvini viene intervistato da Libero a pagina 5 e dice: faccio un appello ai 5 Stelle, se vogliono una mozione di sfiducia contro la Boschi siamo pronti a collaborare. E dopo è scontato che anche le altre opposizioni, a partire da Berlusconi, siano d'accordo. D'altronde non c'è più Denis Verdini, fa anche questa frecciatina, sì, Matteo Salvini a Berlusconi. E dice: mi aspetto un'inchiesta sull'affare banche. Se è vero quello che leggo, le famiglie Renzi e Boschi devono risarcire per i danni fatti. Così Matteo Salvini, intervistato da Libero. Certo, sulla vicenda banche molto ancora c'è da raccontare, molto c'è da leggere, molto c'è da discutere. Intanto vi segnalo l'intervista che il presidente a Consob Giuseppe Vegas rilascia al Corriere della Sera. Beh, dopo che Banca Italia con il direttore generale Rossi aveva detto è un'altra l'autorità che doveva vigilare, tirando in ballo la Consob, ecco che Vegas risponde, intervistato sempre da Daniele Manca. Pagina 11 del Corriere, dice il presidente Consob, il governo non ci ha chiamato, abbiamo meno poteri di prima. È un Giuseppe Vegas che non ci sta a passare per colui che non ha vigilato, anzi dice dire che non abbiamo vigilato è non solo una falsità, ma anche un'offesa all'istituto e a quanti in questi anni hanno lavorato per rendere il mercato italiano più trasparente. Non posso che essere vicino alla famiglia del pensionato che si è suicidato. Eventi che colpiscono duramente, ma pensare di risolvere tutto con processi di piazza su questioni complesse e tecniche è un errore. Anzi, e qui dice Vegas, mi sarei aspettato che il governo ci consultasse. Ah, non vi ha chiamato? Guardi, normalmente in casi del genere ci si aspetta che le autorità di vigilanza vengano chiamate ad affrontare queste situazioni. E voi avete provato a contattare il governo, chiede il Corriere. Ma certo, finora però la valutazione coordinata non c'è stata. E allora che ci state a fare? Appunto, senza fare domande e soprattutto senza ottenere risposte pubbliche, come si fa a rendere un mercato trasparente? Senza trasparenza non c'è stabilità. Anche il Parlamento ha chiesto di rimediare. Del resto, la direttiva è stata recepita solo al 90° minuto. Senta, il governo vi ha tenuto fuori anche dall'arbitraggio per risarcire gli eventuali truffati. È così, e senza trasparenza, quando accadono fatti come quelli relativi a queste quattro banche, il rischio è che si metta in dubbio l'intero sistema. Sì, ma voi avete vigilato o no? È questa la domanda. Abbiamo addirittura anticipato le regole europee, dice Vegas. A fine 2014, unici e primi in Europa, abbiamo diramato una comunicazione sul fatto che ci dovesse essere piena trasparenza quando si vendevano prodotti complessi ai risparmiatori. Insomma, la sensazione a leggere le interviste, commento mio ovviamente, è che non ci sia nessun responsabile. Sempre così in Italia. I responsabili non ci sono mai. Beh, a un certo punto il Corriere dice ma lo capiscono tutti quelli che c'è scritto nei prospetti, a volte anche di centinaia di pagine. Magari non tutti, risponde il presidente della Consob, ma chi vende sì. Ah, allora ha ragione il commissario europeo Hill a dire che forse sono stati venduti prodotti inadatti. Su questo abbiamo in corso verifiche. Così il presidente della Consob Vegas, intervistato dal Corriere della Sera. Sulle banche c'è ancora molto da leggere, ci sono tante posizioni. Beh, sulla Leopolda invece c'è uno straordinario Oscar Farinetti, beh, imperdibile. Oggi l'Unità mette delle foto di Renzi, Renzi che saluta, la gente in piedi che applaude a bocca aperta, due o tre foto che sembravano un po' stile Kim Jong-un, devo dire, da Corea del Nord. Però sentite l'intervista di Natalia Lombardo a Oscar Farinetti, il patron di Italy. Come vola basso, sulla Leopolda, pagina 5. Qui ci sono i cercatori di soluzione. Qui alla Leopolda bisogna produrre soluzioni per il nostro futuro, per allungare la vita degli umani su questo pianeta, ristabilendo il rapporto terra-cielo-acqua. È il mio nuovo progetto, si chiama Durare. Voglio lavorare per questo. E ancora, Renzi ha posto quattro pietre miliari, la parità tra uomo e donna al governo, gli 80 euro, il Jobs Act, una bomba. E poi la quarta pietra miliare, l'aver abolito il Senato, ma ora deve agire sui rapporti umani, abolire la guerra. Oh, ma che è una convention di un partito non si può dire, ma che... È in fase mistica Oscar Farinetti su Renzi, applicasse solo un milionesimo di queste cose, ma porca miseria, sarebbe il Mahatma Gandhi in persona, rivelato. Mi sto innervosendo, d'altronde sta arrivando un uomo che mi guarda dall'alto e questa cosa un po' mi infastidisce. mi ha lasciato anche una pagina della Gazzetta dello Sport sulla scrivania con un post-it domenica. È Mauro Meazza, eccolo qua. Buongiorno, le mie mani fremono, ti sento allegro, come mai? Buongiorno, no, volevo fare quattro chiacchiere con un amico, proprio giusto quattro. Non ho amici. Tenevo... E non conosco il numero 4. Ero qui con la mano che sotto al mento, non so se hai visto. Comunque il mio post-it, te lo dico per chi non ha visto la cosa, era solo per lasciarti un saluto, anzi un caro saluto ti ho scritto. Perché... Con la prima della Gazzetta del Beh, ma quello perché non avevo dove attaccarlo e quindi non volevo che andasse perduto. Senti, volevi che andasse stracciato allora? No. Volevo segnalarti, prima parlavi prima del, diciamo, del momento mistico di alcuni, sì. Parlavi di banche, allora ti segnalo oggi su Sole 24 Ore, tra le molte altre cose, anche il manifesto per la tutela del risparmio, cioè cinque facili punti, devo dire, che abbiamo individuato da sabato, tra cui appunto anche una cosa a cui faceva riferimento Vegas, cioè la chiarezza nell'esposizione dei prodotti e anche il divieto di imporre l'acquisto di prodotti finanziari in caso, ad esempio, di erogazione di mutui di finanziamento. Ma trovi tutto sul Sole 24 Ore, anche con domande e risposte su questo bail-in, sì. A pagina 5, che è dopo la pagina 4, come ognuno sa. Volevo poi dirti, però, non tu che sei appassionato del genere, sì. Che abbiamo una prima stima sugli esuberi, sugli spostamenti che riguardano il personale delle abolende province. Lo so, l'ho visto. Sapevo che questa pagina avrebbe turbato il tuo cuore, così come la pagina... volevo dirti, no, ci sono 16.000 posizioni, riportiamo provincia per provincia, oggi sul Sole 24 Ore, grazie al lavoro di Gianni Trovati, però ecco, bisognerebbe finire il tutto entro dicembre, quindi non c'è tanto tempo. Vediamo, insomma, a che settimana siamo? Delle province? 137esima, appena cominciato. Magari per la 140esima, vediamo. Restiamo in contatto, vedremo strada facendo. Oh, poi, tra le molte altre cose di oggi, naturalmente hai già dato segnalazione alla nostra inchiesta di apertura sull'emergenza sud, sul ritardo anche produttivo e di consumi che caratterizza le regioni meridionali, purtroppo, quindi... Lo segnaliamo con i numeri e poi ricordati che devi pagare. È una nuova versione di Troisi. Ricordati che devi pagare. Ricordati che devi pagare mercoledì. Sì. Mercoledì scade il saldo per IMU e TASI. Sì. E allora, oggi sul Sole 24 Ore, le insidie, cioè le cose che più spesso sbagliamo tutti noi. Nel pagamento di IMU e TASI c'è un decalogo e poi naturalmente sul nostro sito... A pagina 4. Il calcolatore... No, non l'abbiamo messo a pagina 4. Che viene prima di pagina 5, come il 5 maggio. Mi pare che sia a pagina 7, sono tre pagine dopo la 4. Tu vai a pagina 4... Sì, e più 1, 5 maggio. 5 maggio. E poi, vabbè, adesso siamo... No, me lo ricordavo un ascoltatore, mi ha detto ricorda il 5 maggio. Ricorda il 5 maggio. Oramai tiriamo fuori la preistoria, sì. Parliamo anche allora degli scudetti del 1908. Senti, volevo segnalarti come ultima cosa, l'esperto risponde, perché sull'esperto risponde come ogni settimana, naturalmente oltre a risposte ai quesiti, anche abbiamo questa settimana il lavoro festivo, cioè le garanzie, le regole per il lavoro extra, che è una cosa molto importante e molto utilizzata in questo periodo. Queste e molte altre cose, ma i nostri 4 minuti a disposizione mi pare che sono finiti. Però Mauro, aspetta, perché c'era un ascoltatore allarmato. Sto arrivando al semaforo di Piazza Garibaldi di Volta Mantovana e non è ancora apparso Meazza, però adesso è apparso. E quindi lui era in anticipo o in ritardo? Sì, no? Lui era in anticipo o tu in ritardo, non si capisce bene, però. Esatto, guarda, vedo che hai già ripartita la sigla. Avevo sentito anche ieri, seguivo la Carmen, la prima della Carmen, quella, sai quel tratto go go go go go go Leodora, hai presente quel passaggio lì dedicato sì della Carmen? Sì, mi sembrava che parlassero proprio di noi. Bene, grazie. Delle quattro chiacchiere di oggi. Buono scudetto, e soprattutto grazie, apriremo un ciclo, soprattutto traffico. Alessandro Milan, il traffico dell'informazione. Beh, effettivamente è un po' così. Allora, cari ascoltatori, tra l'altro a proposito di banche, vi devo segnalare per concludere l'apertura del giornale. Banche, amici e De Benedetti, il giallo dell'affare milionario. Nicola Porro racconta in prima del giornale questa storia. Si tratta di una bomba finanziaria contenuta in un'informativa della Guardia di Finanza commissionata dalla Consob e a disposizione della Procura di Roma nelle mani del procuratore Stefano Pesci. In una trentina di pagine la Guardia di Finanza descrive i movimenti borsistici sui titoli di quattro banche popolari realizzati dalla Romed, la cassaforte finanziaria di Carlo De Benedetti. Una inchiesta che, dice il giornale, si preannuncia esplosiva. La storia è questa. Fine 2014, poco prima del decreto del governo Renzi sulle banche popolari, nelle settimane precedenti alcune di queste popolari erano volate. In una settimana il Banco Popolare ha fatto il 21%, l'UBI il 15%, Banca Popolare dell'Emilia più 24%. E allora il presidente della Consob Vegas riferisce in Parlamento. L'unico nome che circola su queste plusvalenze è quello di Davide Serra, fondatore dei fondi Algebris, convocato in Consob, uscendo dalla riunione si dice soddisfatto e apprezza la rapidità dell'indagine. Ma secondo il giornale c'è un'inchiesta aperta perché la Procura di Roma ha un dossier su una plusvalenza da 600.000 euro realizzata proprio dalla Romed su quattro banche popolari aiutate dal governo. E il giornale chiede: è soltanto fiuto? Oppure quello che sottintende, De Benedetti aveva saputo, aveva avuto delle informazioni? E questo è l'oggetto dell'inchiesta di cui racconta il giornale in prima pagina. Dovremmo aprire una lunga pagina di cronaca internazionale. Intanto molti giornali aprono sulla Francia, la notizia della Francia è che Marine Le Pen con il Front National non ha conquistato alcuna regione. Erano credo 15 le regioni, quante erano? Che venivano assegnate. Sapete che al primo turno Marine Le Pen aveva avuto ottimi, erano 13 le regioni, avevano avuto ottimi risultati, in alcune regioni è arrivata al 40%, però al ballottaggio non ha vinto perché c'è stata quella che Salvini accusa essere una grande ammucchiata, la stessa Marine Le Pen a dire una grande ammucchiata contro di noi per impedirci di governare. E comunque tutti i giornali raccontano la delusione nel suo feudo al nord. Per esempio racconta Francesca Paci sulla Stampa, pagina 3, è una Marine Le Pen che viene accolta comunque trionfalmente al grido di Marine Presidente, dice lei: siamo la prima forza d'opposizione, in molte zone abbiamo estirpato i socialisti, il tripartitismo è diventato bipartitismo, i mondialisti contro noi patrioti, viva la Repubblica, viva la nazione, viva la Francia, siamo stati sabotati ma ci rifaremo. Questa è la posizione di Marine Le Pen, sconfitta, nel senso che non è riuscita a portare a compimento questa vittoria elettorale. Mentre sulla Libia ci sono delle buone notizie, certo, ovviamente si maneggia una situazione molto complicata, ma proprio a Roma la diplomazia ha avuto una svolta importante. C'era anche il sottosegretario di Stato Kerry a Roma sulla crisi libica. Si è stabilito che il 16 dicembre in Marocco le fazioni libiche firmeranno l'accordo per la nascita di un nuovo governo proposto dal vecchio mediatore dell'ONU Bernardino Leon in ottobre. È l'accordo tra tutti gli stati. Ovviamente a questo accordo non piacerà all'ISIS e Daesh, agli estremisti, e il timore che possa colpire proprio nel momento in cui si cerca di trovare una legittimazione diplomatica e una soluzione pacifica al conflitto che c'è in Siria. In Libia. Mentre voglio andare sulla cronaca in Italia, vi segnalo questa pagina molto interessante del Corriere della Sera, Enrico Marro, pagina 23. Quei silenzi sul caporalato. Ricordate tutta la vicenda del caporalato? 3 mesi fa nasceva anche il bollino etico di cui si dovevano dotare tutte le industrie dell'agricoltura contro il caporalato. Beh, a 3 mesi di distanza il Corriere fa un punto. 3 mesi fa nasceva il bollino etico, ora solo 207 aziende le hanno ottenute, ovvero un'azienda su mille, lo faccio vedere anche in diretta su Periscope, un'azienda su mille, Certo, sono solo 3 mesi, il progetto è nuovo, ma questo bollino etico contro il caporalato, cioè lo sfruttamento del lavoro in nero e sottopagato nei terreni agricoli, per ora ha portato solo un'azienda su 1000. Sono 207 aziende a ottenere questo bollino etico. Va bene, dai, siamo in conclusione. Il calcio lo evitiamo, perché il calcio è uno sport per signorine, non ci piace. Allora, la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, una pagina del Fatto Quotidiano su come si sopravvive alle cene di Natale. È la settimana delle cene di Natale in ufficio. Sopravvivere si può. Ma chi se ne frega!